dal nome tuo credei che fosse in te pietà, giustizia e fedeltà. Ma vedi poi l'errore, ma vedi poi l'errore. Dal nome tuo credei che fosse in te pietà, giustizia e fedeltà, Tu credi.